Picchiadello liberato. Tuk-tuk, tuk, ridoc. Picchiadello, uccello buccigone, fox, duck, fox, duck. Maturi, uccello buccicone, ecco qua. Ora, dopo i picchi innamorati, ora voglio le unghiette. Mi devo allenare le unghiette. Voi direte, come fa un uccello allenasse le unghiette? Ecco qua, l'uccello buzzicone c'ha il suo modo per allenare le unghiette. Tucca qua, tucca là, tucca tucca da tucca a da tucca. Lunghetta antica, ma almeno lunghetta. Yeah. Walk corno, we papa babu cosa. Mamma corno babu do. Papa babu cosa te. Papa babu babu ya. Ok, ora voglio dedicare, voglio uscire un attimo dall'uccello. Ce l'ho fatta, perché questo si suda parecchio. E voglio dedicare un pezzo a tutti i bambini che stanno soffrendo in Palestina. Devo trovare lo strumento, forse è rimasto dentro Ce ne sono tanti tanti che mi perdo, però no, non c'è qui. Oddio, ho perso uno strumento. Ah no, no, ce l'avevo alle spalle. Ecco qua, sempre una kalimba. Questo pezzo è un pezzo di pace, è una canzone preghiera che io ho scritto sin dai primi tempi del conflitto Israele-Palestina. E c'è anche un video che magari potrete vedere su YouTube, che si intitola così come il pezzo, Red La Guerre. Thank you. diciamo. Regarde bien, chaque mère. Regarde tous les enfants. Regarde bien les hommes. Regarde les artistes, les oiseaux, les animaux, tous les arbres, la mer. Regarde, et dont l'aide chacun. Tu peux très bien. Il va arrêter la guerre. Viens ma prière, vite arrêter la guerre. Écoutez ma prière. Arrêtez la guerre. Écoutez cette prière. Arrêtez la guerre. Écoutez ma prière. Questa è una canzone che io ho fatto tanti anni fa, ma è sempre attuale, perché anzi la guerra è peggiorata. Grazie, si può dire che è peggiorata. Ora, a me mi piace molto coltivare il gioco, il fanciullo, anche nella musica. Allora voglio fare per voi una cosa che faccio quando lavoro con i bambini. Io quando lavoro con i bambini gli spiego un pochino come io mi sono innamorato del ritmo, perché, e glielo spiego ai bambini, perché me lo devo sempre spiegare anche a me, no? Cioè, sono delle cose che succedono nella vita. Allora, io ho detto ai bambini: bambini, quando io ero piccolo come voi, stavo molto tempo, in alto, all'ottavo piano di una città grande come Roma, e quando ero piccolo così, io guardavo i treni, ero affascinato, no? Perché la ferrovia era davanti a me, guardavo molto i treni, e dicevo dentro di me: oh, quanto mi piacerebbe guidare un treno, fare il macchinista. Quando sarò grande vorrei fare il macchinista, vorrei guidare un treno, perché porta la musica dappertutto ed è sempre pieno di gente, di viaggiatori. Quanto mi piacerebbe. E allora quel desiderio l'ho mantenuto, come l'ho messo nel cassetto dei desideri, no? Che ogni bambino dovrebbe avere un cassetto dei desideri, dei sogni da realizzare. Io l'ho messo lì e poi sono diventato grande. Ho iniziato a suonare altri, anche altri strumenti ritmici. Tanta Africa mi ha insegnato un sacco di cose. E ho iniziato a suonare e ho detto: però io il macchinista lo voglio fare, mi devo inventare qualche cosa. E mi sono inventato due strumenti per fare la mia locomotiva personale. No? Ho fatto la mia locomotiva personale con due strumenti. Ora, come faccio vedere ai bambini, anche voi avete un fanciullo, in ognuno di noi c'è. E allora va bene. Treno che parte da qui, dal Fox. Fox poi? 18. Binario 18, ok? Dal binario 18 del Fox c'è un trenino dell'uccello in partenza. È il treno di, chiamiamolo, della fantasia, il treno della fantasia e della libertà. Stazione. Farlo da fermo, io di solito lo faccio quello che mi muovo, cammino, però l'ho fatto anche da fermo, va bene, l'ho fatto perché mi... Okay. Ok. Allora, voi sapete che il mio maestro più grande non è stato solo l'Africa o tante situazioni musicali. Il mio maestro più grande, devo dire, è stato la strada. Sì, la strada mi ha insegnato un sacco di cose. Da autodidatta, ma uno la strada la fa senza l'auto, da didatta. Giusto? Didatta. E poi ta-da-da-ta. Ta da da ta ta ta ta da da ta ta ta. Questo è il primo pezzo che ho imparato all'organetto. Thank you. Et alors quoi faire? Si les voix, régalez bien, dans ses yeux, régalez bien, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et alors que vous? Et alors quoi dire? Il ne faut pas juger. Regardez bien. Il y a la liberté dans ses yeux. Régalez bien dans ses yeux. Régalez bien, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et alors que vous, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un enfant dedans. Il y a un enfant. Il a soif toujours. Il y a un enfant. Il y en a un enfant, il a envie d'amour. Et alors que toi, regarde bien, regarde la liberté, c'est dont on aime. Et alors, laisse-lui chanter. Wamba kobo kota, we babulu kwayota. J'ai ces mecs-là. Même si les voient, laisse-les chanter. Regarde bien, c'est sûr. Il a un bon vieux. Il aime jouer dans la roue. Il s'appelle Dauda. Dauda, mon ami. Salut. Ok, ora. Ora voglio dedicare un pezzo a una grande maestra che purtroppo è in cielo. E io sono felice di stare qui a Milano perché sono stato con lei a Milano al Zuma Festival e qui ci sono molti amici che si ricordano di me e di Stella Ciuese, Stella Rambisai Ciuese, una donna incredibile che ha lottato nella ex Rhodesia, che ora è Zimbabwe, ha lottato per il diritto della donna a suonare uno strumento, perché prima era proibito. E lei ha lottato talmente tanto, addirittura il nonno, che era il suo maestro di musica, è stato impiccato. Perché anche in Africa ci sono dei cantastorie con la musica, raccontano delle storie, però il potere ha paura dei cantastorie e anche paura un po' degli artisti di strada. Ce l'hanno un po' paura, perché se non c'è il business dietro non devi raccontare storie, no? Le storie... Ok, io voglio dedicare questo strumento, me lo comprò lei, Stella Ciuese, ad Harare. Quando io sono stato lì da lei, io volevo uno strumento come il suo, chiaramente, da allievo, e lei me l'ha comprato al mercato. È andata al mercato, mi ha detto, fai fare a me. E ora ho questa ambira, dedico a Stella quello che mi dice il cuore ora. Non c'è un programma. Walk. voglio, e ma voglio ma cosa. Ma cosa vuole? Ma voglio, ma cosa voglio. Ma cosa voglio? Ok, ora faccio un altro brano, se ci riesco, ok. Ce l'avete un tovagliolo perché sennò con il sudore non riesco a suonare? Cioè ho sudato. Grazie, grazie molte. Ok. Allora, io sono. Ah, grazie, grazie, grazie. Ulla, ulla, che bello! Sì, no, il sudore è terribile, terribile, anche con gli strumenti. Ok. Never. Scusate, mi sentivo un po' handicappato perché sbattevo sempre questo coso, però vabbè, l'ho fatto lo stesso. Non ci fermiamo. Ok, allora faccio un'altra piccola canzone con la carimba e poi ci sarà una sorpresa diciamo finale. Momento di una piccola sorpresa. Ecco, questo è il momento di una piccola sorpresa. È una canzone che io ho fatto in Messico. L'ho fatta in Messico perché ho sentito che dovevo fare qualcosa anche per quell'ambiente con quei bambini, quegli alberi, quegli uccelli. Era un posto che va e trova anche un po' di ispirazione, no? E ho fatto questo brano che è un po' una ninna nanna. Na na na na na na. Lei è Giorgia, è venuta da Torino per me, grazie al mio invito. Giorgia, se, vieni. Ah, scusami Giorgia, non la vedevo. Scusami che ti ho dato le spalle, te lo devo dire perché non sono abituato, ma però noi... Rimani sul palco? Allora faccio un ultimo pezzo con l'organetto, faccio un ultimo pezzo anche perché ho sudato parecchio. Il vostro calore, grazie. Bellissimi, bellissimi, grazie. Quando non c'è, quando c'è tanto calore, è legittimo anche il sudore, va bene tutto, perché il sudore... Grazie Giorgia. Grazie a tutti voi. Dal binario 18 è partito un trenino con questa bella luna. E io ringrazio tutti, siete stati molto... Ho sentito una bellissima energia. Anche se sono un po' stanco, farei ancora qualcosa, però sono bello su. Ok, guarda, siete talmente belli che nonostante sono stanchissimo e tutto bagnato, faccio la canzone, faccio un pezzo che io faccio sempre in strada ed è dedicato, l'ho dedicato ai busker. I busker sono quelli che lavorano in strada, che suonano, li potete incontrare anche a Milano, dappertutto. Però oggi è sempre più difficile, in Italia, soprattutto da Roma in su, no? Le regole, i comuni, le cose... Gli sbirri, i residenti, i tavoli dei locali, capito? Cioè, ci stanno veramente bruciando la terra sotto i piedi, no? Cioè, nel vero senso. è un casino, è veramente un casino. Anche a Roma stiamo facendo una battaglia, però sono quelle cose che van, le mandano alle lunghe, perché loro vorrebbero che noi ci stanchiamo, no? Ci rassegniamo, ma non è così, non è così. La gente come noi non molla mai, la gente come noi non molla mai, la gente come noi, la gente come noi, la gente come noi non molla mai. Sì. C'è? Ok. Ok ragazzi. Questo? Prova? Sa, prova? Ok. Sì. Fa rumore? Allora, aus. Prova, prova. Ok, prova, vado. Prova. Senti, canto con questo? Sì, dammi questo. Ecco, ok. Canto con quello. Spengi. Dedicato a tutti i basker e a tutti quelli che come noi non mollano mai. Tu ne restes jamais tout seul. les oiseaux qui sont là. Les oiseaux, ils chantent avec toi. Ça c'est vrai, ça c'est bon. Les oiseaux, ils chantent très bien. La gente come noi, non molla mai.